sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 e 3 minuti prima in questo istante, buonasera a tutti, io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara, oggi è martedì 8 maggio del 2012. Maurizio, visto che ti ho citato, buonasera anche a te. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata abbiamo ospiti per la nostra programmazione live, in particolare mi riferisco a Giovanni Peli, che è venuto a trovarci per la presentazione del suo ultimo lavoro, accompagnato da Dan Martinazzi. Buonasera ragazzi. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto, ho fatto buon viaggio? Sì. Visto che bisogna prendere ogni volta la 4 per venire da noi, voglio dire, sì. Buon viaggio, tranquillo, abbiamo trovato tutto subito. Tutto subito, sì, quindi sì. Le indicazioni erano giuste e appropriate, quindi anche i nostri ascoltatori. Siamo riusciti a seguirle. Bene, perfetto. Allora, Giovanni Peli è venuto qui da noi per presentarci il suo nuovo lavoro, che si intitola Tutto ciò che si poteva cantare. Allora, tutto ciò che si poteva cantare, Giovanni, si inizia subito, si entra nel pieno della trasmissione. Cos'è che non si poteva cantare? Già la domanda, prima domanda già. Sì, spiazzata. La prima domanda. Poi le altre sono più facili, sì, o certo, vanno sempre più. No, sempre più, sempre peggio. Beh, non lo so più, insomma, tutto quello che potevo cantare l'ho cantato, in fondo in realtà sono poche cose, però sviscerate. E quindi una volta che ho scelto che di cantare dell'amore, soprattutto della passione, ho provato a dire tutto quello che potevo. Certo, ecco, perché dopo tu sei giovane, no? Sei del 1978, questa età si può dire, nel senso che sì, la dichiari anche tu all'interno della tua pagina, dove porti a conoscenza anche gli ascoltatori di quelle che sono, mi riferisco alla pagina internet, dove sono quelle che sono le tue attività. Naturalmente si vede che hai cominciato ad agire giovanissimo nell'ambiente, diciamo, musicale o paramusicale. Sì, sì, ho iniziato molto presto a scrivere, è una cosa che è venuta molto naturale, in realtà ero praticamente un bambino e poi la cosa mi ha accompagnato sempre. La tua prima canzone l'hai scritta nel 1992, io mi sono informato nel 92, così vero? Quindi sì, facciamo un po' di conti, certo. Quanti anni avevi? Pochi, 14. 14 anni. 14 anni. Ero in seconda media. E avevo già un gruppo che si chiamava Club Revolution. e quindi appunto, sciolto per motivi d'età? No? Sciolto perché, ma io l'ho tirato fino al secondo superiore quel gruppo, perché c'erano problemi col bassista. Poi bassista e batterista è sempre stato mi hanno sempre dato figli da torcere. Era difficile trovarli, non nel senso appena... che è difficile trovare, soprattutto che dialoghino insieme. Era, no, difficile a 15, 16, fino a 20 anni, 25. Sì, perché poi si trova uno che si esprime più nel pop. Ma no, è che il basso non vuole suonare nessuno, insomma, ecco, da piccoli non si suona il basso, tutti volevano suonare la chitarra. Certo. E poi quello che era più gentile ha riposto la chitarra e ha preso il basso. Anche perché il basso abbiamo sta... spiegato che era una chitarra con quattro corde sole e il manico più lungo. Ma non voleva dire che fosse lo strumento più povero, diciamo, di sonorità, perché poi c'è chi ci ha anche lavorato sopra e quindi ci ha fatto apprezzare appieno lo strumento del basso. Mi riferisco ai grandi bassisti del passato, ma anche del presente. Comunque sì, ecco, dopo... era una canzone, si chiamava Il veliero dei sogni, la prima che ho scritto quando ero piccolo. Era comunque molto triste, un po' anche sfiduciata, perché questo veliero dei sogni, insomma, non si fermava, andava via, prendeva la corrente, non lo si recuperava più, portava la pace e non c'era, eccetera, eccetera. E quindi tutte cose vere che poi sono manifestate ancora, ma magari con più non serenità, però più distanza, nel senso che avendo poi visto davvero come erano le cose, se ne sono scoperte altre più belle. Certo, visto che avevi 14 anni, così vogliamo capire ancora di più, attenzione alla domanda. Allora, visto che abbiamo parlato di questo veliero, a chi ti eri ispirato? Beh, so che girava Capitan, era evidente Harlock. Perché io avevo un fratello più grande di 7 anni e quindi è evidente il riferimento ai Doors. Ah, ecco. Un ottimo riferimento. The Crystal Ship. The Crystal Ship, un ottimo riferimento. Quindi hai ascoltato anche quindi i Doors. Quindi già copiavo. No, sì, ho ascoltato un sacco di musica. Sì, sì. Non già copiavi, già ti ispiravi, possiamo dire. No, infatti è una battuta. Certo. Allora, visto che stiamo parlando della tua musica, iniziamo subito a farla ascoltare ai nostri ascoltatori prendendo un brano di riferimento da questo che si intitola Tutto ciò che si poteva cantare, e quindi diamo ascolto a Qualche volta nei tuoi occhi e poi torniamo a commentarla insieme. Blu Radio Sera. Speranza, senza crederci nemmeno un minuto, leggo che mi ami ancora e ti posso dire finalmente che nostro figlio è fortunato, chiama quadrifoglio ogni fiore, chiama ogni rapporto amore. Comincia ad esserci qualcosa di male tra di noi, qualcosa che assomiglia al silenzio, che non nasconde nulla. Ci nascondiamo in verità l'orrore di non avere più un'idea, di non saperci più svelare il mistero che noi siamo. Preghiera, e il futuro va più in là di stasera. Siamo insieme per capire che non abbiamo ragione. Ed ogni nome dato a questo fiore sarà la nostra fortuna. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora con Blu Radio Veneto, ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara insieme a me. In questa serata di martedì 8 maggio del 2012 abbiamo con noi Giovanni Peli, che ci sta pian pianino facendo entrare nel suo mondo, nel mondo delle sue canzoni, presentandoci anche quello che è il suo ultimo lavoro. Si intitola Tutto ciò che si poteva cantare e ci siamo ascoltati, tanto per gradire, la traccia numero 2, Qualche volta nei tuoi occhi. Perché qualche volta nei tuoi occhi, Giovanni? Perché qualche volta ti giri e non la vedi? Qualche volta nei tuoi occhi, vabbè, è il primo verso con cui, con cui comincia tutta questa riflessione. Sì. E niente, è un blues che parla di un amore che continua, di, in realtà di una grande speranza. Qualcuno ha scritto è un blues con molta sensualità blues. Cosa dici? Ma sì, penso di sì. Nel senso positivo del termine. In effetti, quando mi ricordo che quando ho registrato questo disco con Stefano Castagna nel suo studio, abbiamo proprio trattato la chitarra e la voce in un modo simile, ovvero stando attenti proprio alla minima espressione delle note. Quindi io qui faccio pochissime note, ma molto sentite, molto appunto blues. E penso che sia quello, penso che sia una buona cosa da sottolineare. E l'armonica proprio identifica il blues, assolutamente. Sì, anche se non è propriamente un'armonica, ma è una melodica. È una melodica. Che ha suonato Silvio Boldi, con cui ho fatto la preproduzione, e effettata leggermente, filtrata. Sembra un'armonica. Sì. A metà strada, diciamo, tra un'armonica e una fisarmonica, no? Sì, sì, perché infatti, l'armonica, la melodica, come la chiami tu, o la clavietta, come la sì, chiamano, insomma, da altre parti, è quella tastiera che sta riprendendo piede, nonostante la sua età anziana, e anche veniva messa molto spesso da parte in relazione alle altre strumentazioni che si potevano usare. In realtà adesso nella forma acustica si fa sentire molto, sì, molto sì. Spesso. Noi ecco l'abbiamo un po' tolta dal contesto, come abbiamo fatto spesso nel disco. Ci piace, a me piace molto ecco mescolare delle cose apparentemente inconciliabili. Si tratta sempre di piccole cose, perché la questione non è far vedere delle bizzarrie, ma vedere come si può sistemare la canzone in un modo che sia consono al testo e appunto al sentimento e alla sensazione che vogliamo trasmettere. Quindi sì, poi il rapporto col blues è molto importante, non solo per l'appeal, insomma, per come percepisco io la musica, che è comunque molto viscerale, molto passionale, anche la poesia per me è così. E tra l'altro appunto qua con me stasera c'è Daniele Dan Martinazzi, che ho conosciuto proprio ormai 2 anni fa, perché abbiamo messo insieme un gruppo blues, e quindi è stato proprio quello che ci ha spinti a collaborare poi anche per le mie canzoni, perché un modo di sentire la musica che ci accomuna. Diciamo che questo che tu hai fatto ascoltare è sì un blues che però si fa amare anche dal pubblico a cui non piace il blues. Sì, perché ecco, è una questione di sensazione, appunto, di approccio al sì. Blues. Poi la canzone non è affatto un blues, sono le sonorità che richiamano il blues, il mio modo di suonare la chitarra, però poi come è scritta, no, anzi in realtà questa visione un po' afroamericana della cosa è pensata da me, da Silvio Boldi. Dopo, questa canzone era molto diversa quando l'ho scritta, e sembrava una ballata un po' alla De André, poi che comunque non è scritta nemmeno come una ballata alla De André, magari soltanto per come sono disposte le strofe, poi per musicalmente, per l'armonia non c'entra già più. C'è la chitarra solista, la suonità in questo pezzo? Sì, sì. Io nel disco suono tutte le chitarre. Ok. E dai un certo incedere abbastanza, non dico violento, ma di forma, chiaramente. Sì, sì, io ho sempre suonato blues, rock blues, quindi sì, mi piace questo suono molto crudo, diciamo. Sì, sì, diciamo essenziale, che sì. Ecco, ecco, essenziale. Che Giovanni si vede benissimo che è blues, in effetti la copertina del suo CD gli dà una giusta, diciamo, immagine legata al blues, con la custodia della chitarra, segnale che il musicista si deve spostare per proporre la propria musica, e il giubbotto di pelle che segnala ancora una volta. Beh, io vado molto fiero di questo giubbotto di pelle. Di qua non mi sono spostato molto perché è il cortile di casa mia. Sembra una grande piscina, ma è nel cortile di casa mia. E la fotografia l'ha fatta Mario Martinazzi, con cui ho fatto anche il videoclip del singolo, che è tutto ciò che si poteva cantare. Sì, poi ne parleremo. Anche. Sì, va bene. Bene, allora, visto che abbiamo ricordato prima i nostri ascoltatori che Giovanni Peli, accompagnato da Dan Martinazzi, è arrivato con la sua chitarra acustica e Dan con la sua chitarra elettrica. Una bella Fender, bisogna dire che è una bella Fender. Flavio, una bella Fender, la Fender assolutamente ha un certo peso. Non saprei da che parte prenderla, ma so che è una Fender, si legge benissimo, è una bellissima chitarra. Allora, dicevo, visto che siete qua dotati di strumenti musicali, perché non far ascoltare qualcosa dal tuo disco, Giovanni? Sì, volentieri facciamo adesso Tuo amore perduto, che è il pezzo che apre il disco. Benissimo, a te. Leggeri quanto basta, a noi non serve molto più dell'aria per annodare in volo i fili dispersi tra stelle, schemi e desideri. So dove sono andate le promesse, le costellazioni e le illusioni, ma voglio sapere qual è la causa del disarmare la ragione. Ho perso il calore del non pensabile di quando leggevo il libro del suo cuore. Queste pagine sfinite e tutto ciò che comporta la sua immagine dentro me, finché il suo sorriso non annerisce nel cielo. Ma tu, amore perduto, resta così, la tua vita è uno squarcio nel cielo, è uno strappo nel libro, è luce che anticipa il vuoto, vita che brucia la vita. Ho perso il calore del non pensabile di quando leggevo il libro. Radio Sera. Blu Radio Sera. Il il primo brano live per questa serata con Giovanni Peli, il suo ultimo lavoro in circolazione da febbraio, si intitola Tutto ciò che si poteva cantare, e lo ringraziamo ancora per essere qui con noi per proporci la sua musica. In particolare ci siamo ascoltati questa Tu amore perduto. Allora, da dove nasce questa canzone, Giovanni? Beh, dice già tutto il titolo, questo è un amore che finisce. Ma è la cosa più che mi viene in mente di più da dire riguardo alla tematica, è comunque questo sentimento che c'è soprattutto nell'ultima strofa, in cui si parla del rispetto e della volontà che l'altra persona che si lascia, che si è lasciata, continui e resti vera, resti se stessa. Dal punto di vista musicale è uno dei pezzi a cui sono più affezionato, è stata una laboriosa scrittura, il riff l'avevo scritto molto tempo prima delle strofe e mi piace molto per il giro armonico che ho creato e anche in questo caso l'adattamento, l'arrangiamento, i suggerimenti di Silvio Boldi sono stati importanti. Bello. Cosa ci ha messo Silvio Boldi rispetto al brano com'era all'inizio? Che ho fatto con Silvio, che ho fatto con Silvio è per tutti i pezzi simile, nel senso che io avevo scritto i pezzi, avevo molte idee, su ogni pezzo e lui ha fatto una grande selezione insieme a me e soprattutto abbiamo sempre, come dicevo prima, trovato le cose essenziali che diventassero portanti di tutto il pezzo. In questo caso, per esempio, la parte che fa Daniele è quella che collega tutto quanto, questa armonia che in realtà è abbastanza sfuggente e quello è per esempio l'elemento portante che abbiamo trovato essenziale, che abbiamo trovato insieme a Silvio e che poi su quello abbiamo costruito le parti, tutte le altre parti che giravano attorno. Però ecco, in questo caso anche c'è il riff che è di uno stile diverso, che però viene a segnare le tappe principali dello svolgimento del testo, della canzone, e poi c'è una parte nel ritornello che a me piace molto invertire le cose, la strofa è più ritmata, sì. E poi il ritornello si calma e in questo caso entra un suono di musica, un suono elettronico di un synth, e anche in questo caso l'elemento elettronico è ben ponderato da Silvio e mi piace questo contrasto di chitarre pulite essenziali insieme all'elettronica così un po' più scura. Perché è questo che mi piace un po' fare, descrivere i contrasti delle cose. Ecco, è una qualcuno cosa l'ha molto ipotizzato verso il prog, e poi io posso essere d'accordo, cosa pensi? Questo pezzo, sì, proprio per l'armonia e comunque anche il riff, per la tipo di cantabilità che esattamente ha, sì. Ci sono dei riferimenti, sì. dei riferimenti, sì, più sì. Che altro così, non ipotetici, dei punti di riferimento, sì. E basta. Io in realtà non ne ho, nel senso che ho veramente ascoltato tantissima musica e ogni volta che si parla di riferimenti, io potrei dire dei nomi che magari non c'entrano nulla, è tutto un grande calderone. Di cose che magari poi in un ricordo inesospettabilmente saltano fuori. Sì, vengono fuori, certo. Così. Poi più tardi qualche nome lo farai. Comunque l'ultima parte faccio una lista. Certo. Ce l'ho qua. Vabbè. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo con Giovanni Peli, stiamo presentando il suo disco Tutto ciò che si poteva cantare, si intitola così. Per saperne di più su Giovanni Peli è possibile anche andare a vedere il suo sito internet. Che indirizzo, Giovanni? giovannipeli.it, e da lì si possono cliccare tante cose, c'è la mia storia, c'è anche un archivio di cose che ho scritto e le cose più nuove ci si linka ai social network e al mio blog che è da poco che ho fatto. Comunque da Giovanni Peli si parte a cliccare se uno ha voglia. se una voglia va avanti all'infinito. Sì, no, sì. Ci sono tante cose interessanti da vedere all'interno del sito, a partire appunto dalla biografia, che noi adesso stiamo pian pianino cercando di addentrarci all'interno della storia di chi è Giovanni Peli. E poi c'è naturalmente lo spazio dedicato alle parole delle sue canzoni, c'è lo spazio del teatro, più tardi ne parleremo, e poi ancora le immagini e i contatti. Anche per entrare in possesso del disco si può agire tramite il sito internet? Sì, in realtà non c'è ancora un link preciso che manda a un acquisto diretto, però facilmente si va al sito della casa discografica e comunque mi si può contattare. Tra l'altro, comunque il disco è disponibile, si trova facilmente in tutte le piattaforme digitali. Benissimo, quindi basta cercare, avere la volontà di cercare su internet e si trova. Benissimo, allora un altro spazio live, Giovanni. So sì. Che c'è adesso un disco che ha a che fare anche con un video di cui parleremo più tardi. Sì, facciamo proprio il singolo, però lo facciamo così, acustico, una versione diversa. Così magari la gente capisce qual è la versione acustica di Giovanni Peli in questo disco, e poi naturalmente acquistando anche questo CD ascoltare anche la parte, diciamo, più elettronica in questo caso. Sì, mi piace dire rock, ma ci sta dentro rock. Tutto. Sì, certo. Okay. Ecco qua. Radio Veneto. Luna, Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo ancora in diretta per ascoltare la musica di Giovanni Peli con questa canzone che hai detto in principio, Giovanni, fa parte appunto del tuo disco, ma è anche la canzone che è uscita come singolo, Giovanni. Sì, sì, questo è il singolo. In realtà avevamo tutti un po' annusato, noi, io, Stefano Castagna e Silvio Boldi, che potesse essere il primo singolo, e la cosa già mi divertiva. Già quando avevo fatto il provino in casa, questa melodia è accattivante per noi almeno, il riff ripetitivo, incisivo, ce l'ha fatto un po' così. L'abbiamo pensata così, che potesse essere caratterizzante, che potesse descrivere un po' le nuove sonorità che volevo prendere. È un pezzo rock, decisamente. Pezzo rock, sì, sì. Assolutamente rock, come tu definivi prima. Adesso l'abbiamo ascoltato in versione acustica, seppur sostenuta, diciamo, sì, a un certo punto. Qualche derivazione, Flavio, chitarristica, sì, da parte di Giovanni, sì, pozzicana in alcuni momenti, un po' messicana, possiamo dire, sì, così. Sì, certo. Non sapendo suonare bene nulla, si suona un po'. Non è vero. In realtà escono fuori cose straordinarie, certo, perché, riferimenti a qualsiasi cosa. Perché il cantautore riesce ad imporsi con lo strumento musicale, di solito suona con l'emozione di suonare, sì, più, sì, che conoscendo, diciamo, la parte tecnica. Sì, quella, sì, se per caso la si sa, la si dimentica. Sì, certo. Vabbè, Giovanni, comunque noi abbiamo ascoltato adesso tutto quello che fai, l'abbiamo ascoltato in versione acustica, poi i nostri ascoltatori, se si prenderanno il disco, potranno ascoltarlo anche in versione appunto rock elettronica. Sì, beh, però comunque, sì, in rete si trova tutto il disco, in realtà, già su YouTube, sì, o anche su SoundCloud, se qualcuno vuole ascoltare, che non si fida proprio, vuole ascoltare prima, sì, sì, sì, in, sì, rete, e si vede anche il primo video che ha fatto. Certo, parliamo pure di questo video, perché c'è una protagonista donna insieme a te, che so che fa il tuo stesso lavoro cantautorale. Certo, questa è la mia amica Angela Kingsley, che sta preparando un disco nuovo anche lei. E è stato tutto abbastanza casuale. Lei in realtà è prodotta da Stefano Castagna, anche lei, e si dice così, si può dire prodotta, sì, sì, comunque, sì, musicalmente prodotta, sì. E niente, è una mia amica, si è gentilmente prestata a fare i cori di questo singolo. E peraltro già in preproduzione era l'unico pezzo in cui avevamo rintracciato la possibilità che andasse una voce femminile, e in effetti ci sta bene, perché a parte che il pezzo, anche il testo lo richiede, perché si parla evidentemente dell'attrazione fra due persone e delle conseguenze, in questo caso non limpide, della cosa. E quindi ci stava bene come da un punto di vista così di senso, e poi anche da un punto di vista timbrico addolcisce la parte molto ruvida delle chitarre. E ecco, sì, in realtà è stata poi molto disponibile anche a esserci fisicamente nel video, che però sembrava dovesse prendere altre forme. Io e Mario Martinazzi, regista, abbiamo fatto un bel po' di brainstorming, e abbiamo fatto due sceneggiature in poco tempo, perché con una non ci siamo un po' incastrati. Alla fine il risultato è stato questa idea di labirinto mentale, di, sì, inseguimento. Si parte dal letto, no? Da un letto condiviso per... C'era un letto disfatto. C'era un letto disfatto, ecco, lascia molto anche al, così, poi, all'immaginazione. Poi questi due personaggi in realtà compiono le stesse azioni, sì, e gli stessi tentativi di ricerca, e che poi non vengono disillusi continuamente. Così è. Maurizio. Sì, volevo soffermarmi sul discorso musicale, il pezzo decisamente rock. Qui l'avevi fatto in versione acustica con delle variazioni di chitarra, non non di poco peso, secondo me. Io l'ho visto, ho visto, cari ascoltatori, ho visto Giovanni mentre danzava con le corde, e anche, anche Dan dava il suo contributo con la Fender. La Fender è un suono molto potente che dà ti traghetta praticamente, ti traghetta nell'insieme del pezzo. È un traghettatore. È un non da poco, praticamente. Il Fender è un suono molto interessante. E il pezzo è rock, sì, è rock, però un rock che ci sta dentro, un rock che riesce ad entrare in mente, per quello anche la ragione del singolo, anche questa. Esatto. Adesso volevo fare una domanda così a bruciapelo a Dan Martinazzi, visto che si fa sentire citato, poco, diciamo, il protagonista della trasmissione è Giovanni Peli, però molta importanza hanno anche l'entourage, no? Senza di questo, non ci sarebbe la musica, diciamo, nell'insieme. E qual è, come ti trovi a suonare con Giovanni Peli? Attenzione alla risposta. No. Nel senso, vi siete incontrati e subito musicalmente piaciuti? Sì, senz'altro, ci siamo conosciuti prima a livello umano e dopo pochissimo abbiamo cominciato a suonare insieme, c'è stato subito questo feeling, un po' forse perché partiamo comunque da radici, come diceva giustamente Giovanni prima, blues. Quindi abbiamo trovato questo punto d'accordo sicuramente, e sono quelle cose che funzionano senza dover per forza dire o spiegare niente, si va d'accordo a primo acchito praticamente. Esatto, immediatamente. Esatto. Bene, allora è stata una bella risposta, insomma. Ha dato una risposta piacevolmente corretta. Sì, e comunque a proposito dell'entourage, la cosa molto bella che mi è successa da quando ho cominciato a pensare a questo nuovo progetto è stato trovare amici nuovi come Daniele e ritrovare amici vecchi come Angela e vedere tutto questo entusiasmo, e mi ritrovavo a così sempre un po' narcisisticamente a segnare sull'agenda le persone che mi stavano aiutando. E così pensare, sognare se tutto questo amore poteva essere ripagato. E era veramente bello, insomma, e mi ritrovavo veramente circondato da un'energia positiva, e sicuramente io ho fatto del mio per crearla, e sicuramente la mia convinzione su questo progetto ha fatto molto, ma ho incontrato anche persone speciali, e tra l'altro tutti musicisti ben consolidati di loro, e che io ho potuto tra virgolette usare per creare qualcosa di cui io sono pienamente soddisfatto, e anche loro. È veramente bello, speciale, e non è da tutti, diciamo. Certo. Allora adesso Giovanni, sentiamo come hai utilizzato tutte queste persone per Mani di Foglia. Sì, Mani di Foglia è, allora, innanzitutto il pezzo più veloce del disco, è quello più sprintoso, è divertente da suonare, e qui ci sono veramente tantissime chitarre, e dal vivo le fa Daniele, io faccio poco o niente, lui più o meno dà la stessa fa lo stesso effetto. Queste invece ne ho fatte tutte io, saltano fuori nel ritornello. E diciamo quella meno d'amore, molto introspettiva, ma anche in questo caso ho cercato il contrasto, quindi una cosa molto sprint, quasi così ballabile, almeno a me piace pensarla così, e con un testo particolarmente pesante e molto introspettivo, con ironia amara, e con anche una sorta di dichiarazione di resa finale nel ritornello, dei versi abbastanza chiaro, però tiene su la musica molto. Sì. Allora ce l'ascoltiamo, questa Mani di Foglia, lui è Giovanni Peli, l'album è Tutto ciò che si poteva cantare, e noi siamo a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Conoscere se stessi è impossibile, è l'unico modo di giocare, a prendersi quando ha voglia. Capire cosa voglio dalla vita, sapere cosa cerco e cosa gratto via dai muri, e soprattutto perché non ha prezzo. E sorridere a chi mi sbarra la strada non ha prezzo. Di fronte al mio pensiero cambio forma, se lo afferro con forza ho mani di foglia. Conoscere se stessi è impossibile, il giorno smentisce le notti abbruttite con pretese di gioia, ed io so solo una cosa, quanto ho creduto ed amato le illusioni. Io lo so e so che di fronte al mio pensiero cambio forma, se lo afferro con forza, con mani di foglia. E ho la pelle più dura e i miei piedi sprofondano. Ho braccia che si aprono, rami spogli e sottili. Ho braccia che si aprono, rami spogli e sottili. Ho braccia che si aprono, rami spogli. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mani di foglia, un brano veramente veramente forte, ancora un brano pop rock ad alto livello, questo di Giovanni Peli, tutto ciò che si poteva cantare è il titolo del suo album, quindi come dicevi prima Giovanni, un brano molto sostenuto nei testi, molto sostenuto anche nella musica, che però cala un po' alla volta, cioè un po' alla volta va a scemare. Come mai questa scelta di un mixaggio così? Sì, beh, la sfumata era proprio il caso di farla, perché ripeto il ritornello continuamente, appunto, che dice ho braccia che si aprono, rami spogli e sottili, che è appunto quella dichiarazione di resa di cui parlavo prima, che però è anche così, insomma, una specie di accoglienza di un indifeso. E non, mi piaceva l'idea di che questa frase continuasse all'infinito, e quindi abbiamo usato lo stratagemma classico, anche questo del rock, della sfumata. Un finale sarebbe stato troppo deciso, troppo perentorio di fronte a questa dichiarazione, appunto, certo, di debolezza tra virgolette. E tu hai detto, cioè questo è un pezzo assolutamente live, che si suona dal vivo in una certa maniera potente, che però alla fine sfuma. E a proposito di questo, nei live tu hai fatto una bella dichiarazione in un'intervista che recentemente ti hanno fatto, e hai identificato così il live: arrangiare una canzone ma anche risuonarla dal vivo è come mettere in scena un pezzo di teatro, meglio ancora come fare una micro opera lirica. Questa è una bella cosa, risuonare un pezzo dal vivo vuol dire ricreare il pezzo praticamente, non è sì, così? Sì, beh, questo è assolutamente così. Anche quando si arrangia un pezzo la cosa è simile, e c'è un doppio lavoro, nel senso che quando bisogna rifare dal vivo con la stessa intensità, c'è questa idea, e appunto qua c'erano molte chitarre, abbiamo dovuto semplificare, però avere la stessa intensità. Sul palco eravamo in tanti, quando si può siamo sempre in tanti, in nove, c'è un'energia molto molto bella, e, E l'idea della microopera mi piace molto perché, per quanto mi riguarda, questo genere che faccio, che chiamano comunque canzone d'autore, sta un po' lì, c'è questo testo e bisogna portarlo alla luce, farne vedere le sfumature, e questo si fa con l'interpretazione vocale e soprattutto con l'arrangiamento. Poi allora, scusami Flavio, un'ultima cosa. Sì, prego. Nell'insieme della band c'è Silvia Napoletano che fa anche la lettura ai cori. Sì, quando c'è la band enorme, completa, enorme. Saremmo in nove. Bene, bella cosa. Mi piace molto, siccome scrivo anche poesie da sempre, e io ho fatto tantissime cose, ma quello che mi piace di più fare appunto sono le poesie e le canzoni. E ultimamente ho capito che le cose potessero veramente andare insieme, essere conseguenziali, e ho pensato di presentare questo disco come appunto una serie di dichiarazioni, di sogni, di passioni che io ho voluto trasferire, di emozioni, e mi piaceva appunto che le mie poesie fossero lette, ma non declamate. È un po' come un flusso di coscienza che accompagnava le canzoni. Quindi ogni tanto, quando abbiamo fatto una scaletta un po' così particolare, anche quella l'ho tentato di generarla facendo finta che fosse appunto un pezzo di teatro, un film, anche qualcosa del genere. Silvia Napoletano, una bravissima giovane attrice di Brescia, che faceva i cori e leggeva insieme a un altro amico cantante, Stefano Rizzo, leggevano contemporaneamente dei versi miei, e questo era molto suggestivo, e appunto quando abbiamo la possibilità di esibirci live così lo facciamo ancora. Abbiamo fatto anche una registrazione di queste voci che continuano a cavallarsi e dicono dei miei versi. Se qualcuno vuole ascoltarli bene, ritrova delle mie immagini che si ritrovano anche nelle canzoni, e quindi il mio mondo viene recepito. Se no, non importa. Poi ovviamente le voci vengono scelte accuratamente, nel senso che Silvia ha una voce bellissima e Stefano pure, e insieme è bellissimo, sembrano come... non so se avete presente, non so bene se c'entra, ma questo ve lo dico perché mi viene in mente. Sì. I delfini, quando fanno l'amore in mare, continuano a svilupparsi insieme alle onde. Sì. Ecco, sono un po' così quelle voci. Fantastico, ottima descrizione. E comunque abbiamo introdotto, e che introduzione, è quello che è l'ambiente poesia, dove tu non sei nuovo, anzi hai cominciato proprio con quella nel 1995, sono passati un po' di anni. La poesia come si è sviluppata nella tua mente, nel tuo cuore? Ma non saprei bene, sì, io già appunto nel 95 avevo già scritto un bel po' di cose. La letteratura è stata una passione che mi ha fatto anche scegliere di fare lettere all'università, insomma, cose del genere. Ho sempre letto molto poesia, sempre di più in realtà, anche se ho iniziato scrivendo canzoni, perché è tutto cominciato suonando la chitarra da bambino. Poi ho cominciato a studiare musica e a scrivere poesie separatamente, e poi dopo un bel po' di anni ho ripreso a mettere insieme le cose, a tornare a fare il cantautore. Ci hai preparato qualcosa per l'occasione? Sì, volevo leggervi una poesia. Certo, anche accompagnata, abbassiamo anche la musica, la rendiamo... Sì, sì, niente, solo la voce. Perfetto, ecco qua, Giovanni Pelli. Okay. La poesia si chiama Australia. Quei due mesi, mentre nascevano, erano stati di vacanza. E là c'erano tanti italiani che si sapevano divertire. Una raccolta di fotografie già pronte da far sviluppare, ed in canna un altro rullino esausto, oberato di canguri e koala. Ma non sarà capace per niente di portare via con sé gli aborigeni dal sorriso facile. Da qui lui non porta via niente, e tutto è avventuroso, irripetibile, incosciente. Tutto va in un tesoro nascosto, va come una goccia di profumo messa a tradimento da Franca sul suo torace tanto tempo fa, a intorpidire la volontà. E un bambino respirerà queste immagini torride, la chiesetta del quartiere, la casa di Sandra come quella di un film, e più in là il nero bosco sensuale, quelle immagini sovrapposte degli amori irrisolti, parole straniere frenate nella bocca timida, un bambino sulla sedia a sdraio di plastica arancione, prima di gridare insieme a tutto il quartiere gol, respirerà il profumo della dolce e insignificante vita di suo padre. Sta lì a sonnecchiare, come un micio tutto piccolo, sul torace, con quella catenina d'oro da poter sentire in bocca. Bene, abbiamo ascoltato questa poesia, si intitolava Australia. Come mai questo? Mio papà per lavoro è stato in Australia e io lo seppi da bambino, perché è andato mentre appunto io stavo per nascere, e questa poesia fa parte di una raccolta che sto scrivendo da anni e che prima o poi pubblicherò, che si chiama Il passato che non resta, dove incrocio i miei ricordi di infanzia con i racconti di altre vite e altri, a loro volta altri ricordi. E le altre poesie, quelle che avevi scritto in età più giovane, quelle che parlavano di incolore semplicemente, poesie blu, Croda de Foglie. Sì, Croda de Foglie in dialetto bresciano vuol dire le foglie cadono. Era solo un titolo che mi sembrava suggestivo, in realtà mi ricorda mio nonno che disse così quando anche Croda de Foglie cruderò un po' a me. Ah, sì. Io morirò quando le foglie cadranno. Certo. Ma quelle poesie che ho scritto così da giovane erano più che altro esperimenti di sensualità della parola. C'erano molte assonanze, molte allitterazioni, esperimenti tecnici, diciamo. Io non li percepivo così, però erano più che altro quello, perché in fondo da dire davvero, a parte sensazioni ancora molto acerbe, non ce n'era. Tu sei musicista, però in questo caso hai scelto di dire la tua poesia senza musica, senza altri sottofondi che non la tua voce. Sì. C'è un motivo. Perché sì, magari voglio ascoltare bene la mia voce. Sì, perché molte volte gli artisti, gli attori, quelli che enunciano, diciamo, una poesia, magari anche non loro, e fanno scegliere al regista di turno una melodia sulla quale tracciare le parole. No, a me non piace per niente, però per ora, e comunque devo dire la verità, a me piace proprio leggere le poesie alla radio. bello. E non difficilmente mi faccio appassionare dai reading. Sì. Però non escludo di farli in futuro. E appunto penso che nella voce ci sia già tutto. E per ora io la vedo così, è una cosa che sto comunque sperimentando. Dai, che allora ancora. Dopo ne ascoltiamo un'altra. Sì, volentieri. D'accordo. Bene, sì. Allora, intanto ci prendiamo una piccola pausa di piacere ascoltando un altro pezzo del tuo lavoro, che poi torneremo a commentare insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sembra più libera, sembra una fotografia. Ma perché adesso siamo anche... Ha l'odore di un'altra stagione, la prima che ricordi tu. Per quello che non sei. Vieni, dormirò dopo il tuo arrivo. Vieni, da qui non vedo niente. I grilli hanno già sprecato troppe parole. Basta tenere accesa la luce per non dormire per te. Vieni, stanotte sono sveglio. Vieni, piango e non m'accorgo. Piango e non m'accorgo. Piango e non m'accorgo. Piango e non m'accorgo. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 e 59 minuti primi, sempre all'interno di Blu Radio Sera, la programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata da Flavio Bilato, Maurizio Calzavari insieme a me e a Giovanni Peli, che è venuto a presentarci tutto ciò che si poteva cantare assieme all'amico Dan Martinazzi, che suona la chitarra elettrica nella sessione live di questa serata. Allora, viene la notte, un'atmosfera contorta, rarefatta, un insieme di elettronica che porta a quello che potrebbe essere considerato una specie di piccolo delirio notturno. Sì, sì. Allora, innanzitutto è un pezzo vecchissimo. Io l'ho scritto, c'è una versione inascoltabile che però io facevo sentire lo stesso. Mi piace inascoltabile. Che è del 2002. Io avevo fatto un demo in casa con la copertina fotocopiata. Era una specie di studio di un investigatore con le finestrelle abbassate, c'era tutto un po' alla penombra, c'era la lampada, e l'avevo intitolato Dice la notte. Era tutto infatti basato su come le cose cambiano di notte, e su anche l'insonnia. E così questa sensazione di mondo, di realtà alternativa, parallela, che poteva essere la notte. E questo era un pezzo che ho suonato molto, che era tutto chitarra e voce. Distorta molto... chitarra? No, era proprio chitarra e voce tranquilla, sì, proprio sì. Una ballata così, era uguale, erano le stesse note, lo stesso arpeggio, la stessa armonia, e poi finiva con un crescendo dove qui comincia, come qui alla fine modula, e c'è questo irritante suonino che continua e diventa una specie di... ci si prepara un incubo notturno, mentre prima si cantava qualcosa di abbastanza dolce, tuttavia si ricercava in queste contorsioni, si ricercava comunque la dolcezza, si aspettava la notte che arrivava, che poi è evidentemente una un'idea femminile, diciamo. Certo, salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, grazie a lui che sei qui stasera, Giovanni Peli, e grazie ad Alberto che noi siamo entrati in contatto con la tua musica, davvero piacevole, anche se non di tutti i giorni, no? Perché c'è sempre quella musica che dovrebbe andare in radio, che mai riesce a far breccia, ma poi diciamo nell'insieme del disco si ascolta piacevolmente, va fuori da tutta quella che è l'atmosfera commerciale che viene proposta in questi periodi. Sì, noi cerchiamo di far questo e ritornando a questo pezzo, era un pezzo rumorista secondo me. Sì, infatti. Decisamente molto rumorista. L'idea improvvisa che mi è venuta era di tradurre con i suoni su cui lavora spesso appunto Silvio Boldi, trasferire questo arpeggio di chitarra con questi suoni. E era una cosa così un po' tra virgolette coraggiosa, comunque bizzarra, però il risultato ci ha subito interessato, quindi siamo andati avanti, l'abbiamo finita così. Anche la voce è stata curata poi da Stefano Castagna diversamente, e l'impasto è venuto, e ci sono soltanto synth, soltanto voce e synth. Quindi potrebbe essere anche un pezzo dark, se vogliamo dire. Sì. Molto dark. Molto dark. Benissimo. E dal vivo la facciamo uguale, ma l'aspetto rumoristico lo fa anche Daniele insieme a Silvio, proprio perché certe stratificazioni per fare dal vivo abbiamo diviso le parti fra Silvio e Daniele, e quando c'è la possibilità, appunto, anche qui invece di sfumare e calare nell'inquietudine, facciamo sì che esploda e la parte finale viene ripetuta, io mi metto a gridare, è veramente un gran casino. Molto bene. Molto, molto teatrale, quindi. Io ve lo dico, poi se volete venire, certo, a sentirmi, tutto voi. Vabbè, allora da un pezzo dai colori molto scuri a un pezzo dai colori molto chiari e vivaci, quindi Corallo, in questa serata so che vuoi suonarla in versione live. Sì. Allora ce l'ascoltiamo. Sì. Prego. Erano giorni di canzoni inglesi, di speranze contro Berlusconi. Erano giorni di rose a farne la nostra pelle. Le nostre voci sovrastavano perfino chi non sa guidare i SUV. Noi dalla terra cadevamo al contrario nel cielo. Chi ero quando un solo pensiero aveva senso ed era il mio? Io non resto senza te. Perderai, hai detto ieri, ed è ricominciato il mio delirio comico, ed una piuma di cuore sfidò il cielo metallo. Sono passate poche ore e ciò che era rosa pallido è labbra corallo, è disponibile alla cura, e mi chiedo chi ero, se qualcuno di noi due era sordo ed ero io. Io non resto senza te. Io non resto senza te. Verdi, i nostri piccoli nazisti mi distraggono. Ma il cielo è solo sfumatura e corallo. Oggi l'universo assume un peso diverso. Vado a scrivere una data sul muro. ciò che ha senso ancora rosso corallo. Ho sconfitto questo cielo metallo. Ciò che ha senso ancora rosso corallo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Insieme a noi Giovanni Peli, tutto ciò che si poteva cantare, memorizzate bene il nome di questo CD e poi andate a curiosare su internet, il suo sito è giovannipeli.it, all'interno di questo sito scoprite biografia, musica, parole, teatro, immagini e quant'altro su Giovanni Peli, quindi sulle sue produzioni artistiche, non solo musicali. Comunque al tuo attivo, Giovanni, ci sono altri dischi oltre a questo, tutto ciò che si poteva cantare. Ma dunque, sono dei demo, sono dei demo, non sono dei dischi. Questo è il mio primo disco. In realtà c'è stato un EP nel 2010 che raccoglie 5 canzoni fra le migliori che ero riuscito a produrre tra il 2006 e il 2010. Dal 2001 al 2006 ci sono moltissime canzoni che io ho fatto sentire, ho proposto, che ho suonato anche dal vivo, però ecco, erano dei demo, ora c'è un disco vero e insomma la differenza è... E sei soddisfatto? Assolutamente, di questo, io mi sono ripromesso di fare sempre dei passi avanti secondo una mia idea di... di tra virgolette, certo, carriera, sì, che comunque è iniziata quando ho registrato il primo pezzo in casa nel 2001. E le idee erano tante, mi sembrava giusto farle sentire, insomma, e poi sono cresciuto e questo è il primo disco ufficiale. All'interno del tuo disco ufficiale è presente qualcosa che prima era demo? Sì, appunto Viene la notte, la suono da tanti anni. Metà disco è stato scritto parecchi anni fa, nel corso degli anni, mentre metà sono canzoni più nuove che ho scritto negli ultimi anni, dal 2008 al 2010. Tutto il resto è in buona parte, poi vabbè, è stato suonato dal vivo tante volte, sono canzoni che hanno superato selezioni, però ci sono anche altri pezzi di cui magari nel corso degli anni ho cambiato qualche verso. E Il nome che vuoi è un vecchio pezzo del 2004, Incrocio è un pezzo anch'esso vecchissimo che però ha cambiato completamente faccia negli, certo, ultimi anni, ecco. Ho saputo oggi che tu e Dan, quindi Giovanni e Daniele, siete arrivati un po' prima dalle parti di Padova e siete andati in centro a curiosare in un negozio di dischi. Sì. Quali sono, come dire, io c'ho un amico che studiava a Padova, che quando si parla di Padova mi dice sempre del 23 di andare, non so se si può dire, comunque è conosciutissimo, quindi abbastanza con problemi, non gli serve la pubblicità. Esatto, sì. Comunque niente, io ero già andato insieme a questo amico anni fa e in effetti mi ero divertito, nel senso che ci sono tornato volentieri. Sì, ma qualche volta a Padova e vado lì. La mia domanda era soprattutto rivolta su quali scaffali ti dirigi. Ah beh, ma io ascolto qualsiasi cosa e comunque voglio sapere cosa ho comprato. Se vuoi dirmelo, sì. Allora, ho preso Scary Monsters di David Bowie, che non avevo in CD, li avevo tutti quanti tranne quello. Sì. E poi ho preso Abbado, che dirige i concerti per violino di Berg e Stravinsky. E li conosco tutti e due i pezzi, però non l'avevo in CD e quella versione non ce l'ho. Quindi benissimo. Quindi, abbiamo citato già due nomi importanti che fanno parte. Berg, Stravinsky e David Bowie. Benissimo. Sono tutti del Novecento. E quindi sia la parte, diciamo, classica, sia la parte rock. Sì, diciamo che da qualche anno non ascolto il jazz. Il jazz mi ha, si può dire, stancato. Mi ha stancato, ecco, una bella, un eufemismo. Sì, vabbè, non fa parte più del tuo DNA. No, l'ho ascoltato molto e poi vabbè, ho comunque Beh, una volta all'anno, due, ascolto Kind of Blue, Nefertiti, li ascolto. Quindi i classici li ascolti sempre. Invece, sì, invece però ecco, mi sono un po' disaffezionato e mi solletica di più la musica classica o rock e ultimamente la canzone d'autore. Sono curioso anche di sentire i miei, tra virgolette, colleghi, insomma. Sì, certo. Quindi, tra virgolette, non per loro, per me. nel negozio siete stati insieme o Daniele si è dedicato ad altre visioni, ad altri ascolti? No, lui c'era. È uscito poco prima di me, è entrato insieme a me. Ci siamo consultati, in realtà voleva farmi comprare qualcos'altro. Cosa volevi fargli comprare, Daniele? Volevo farti comprare... Ah sì, la Cavalleria Rusticana, la Cavalleria Mascagna. Rusticana. Ah, sì. Fantastica anche quella. Un'ottima versione. Sì, sì. E tutte le sonate di Beethoven anche. Bene. Beh, assolutamente fantastico. Quindi proponi rock, proponi musica pop elettronica, ma anche sei una grande amante di musica classica, abbiamo capito. Sì, sì, mi piace. Ma io in realtà ho frequentato l'ambiente, se si può dire. Sì, perché che... sei stato anche librettista. Sì, sì, ho scritto dei libretti, ho scritto un libretto d'opera che ha vinto un concorso importante, anzi, due. Uno era per bambini e l'abbiamo vinto a Firenze nel 2004 con dei miei amici che sono grandi compositori, sono tutti due di Brescia. Uno si chiama Antonio Giacometti, che è stato mio maestro per un po', finché lui ha potuto insegnarmi e io ho potuto apprendere. Poi a un certo punto abbiamo capito che più di tanto non è che si poteva fare, però appunto poi lui mi ha chiesto parecchie volte di collaborare con lui e gli ho scritto dei testi. E molte cose per bambini, delle letture concerto tratte da libri per bambini, alcune cose me le sono inventate io, dei versi, e volevo un foglio, era un'opera che ho scritto, di quel libretto ho scritto io, e Antonio Giacometti e Mauro Montalbetti, che è stato suo allievo, ma adesso una carriera sua, e per lui ho scritto un altro libretto d'opera, questa volta per adulti, ispirato alla vita della poetessa Silvia Plath, e con questo invece abbiamo vinto concorso nel 2006 al Fuchs di Graz, che è un premio importante di opera contemporanea. Quindi la musica contemporanea mi ha sempre, diciamo, stimolato, bello anche recuperare delle cose della musica contemporanea nella musica leggera, è sempre una cosa bella, non invento niente di nuovo, l'hanno fatto in tanti, però ha un orecchio... Si può, che bisogna tendere un orecchio da quelle parti, bello. Lo ha fatto anche Battiato un po' di tempo fa, sì, no, di recuperare la musica contemporanea. Sì, sì, no, l'ho fatto in tanti, però mi sembra una bella miniera. Certo, insomma, certo. Ma no, lo dico perché comunque penso che sia tanto abusata nella canzone d'autore, la sonorità jazz appunto, oppure... cose magari più folk, così invece ci sono tante cose da prendere anche nell'elettronica o nella musica contemporanea per dare profondità agli arrangiamenti anche di una canzone che vuole essere quello che è una canzone, però insomma, perché tutto questo jazz, tutti questi timbri jazz? Vabbè, allora, in controtendenza col jazz, Giovanni Peli con la sua musica. Allora, un altro pezzo dal tuo disco, Tutto ciò che si poteva cantare, ci ascoltiamo La piccola ombra. Blu Radio Sera. Torniamo un attimo in diretta per parlare ancora con Giovanni Peli, il tempo di cambiare il disco che stava saltando di bello. E allora, prendiamo un altro disco, dai, lo facciamo ascoltare allora ancora una volta la canzone, la numero 10 se non vado errato, e eccola qua, con Giovanni Peli. E poi apre le ali, ubriaca, si guardano un istante, no, non c'è nessun traguardo, dice lui. e poi apre. C'è qualche problema tecnico che ci sta invadendo, probabilmente il CD player non va d'accordo con il CD, allora perché non continuare la trasmissione parlando ancora con Giovanni Peli. Non siamo riusciti ad ascoltare la piccola ombra, facciamo live. Benissimo, risolto ogni problema. La piccola ombra, che peraltro è nell'arrangiamento del disco che invito ad ascoltare in streaming, è il mio preferito, ecco, è per quello che avevo scelto di far sentire l'arrangiamento che abbiamo fatto nel disco, però la facciamo adesso così. Piccola ombra svanita, io vado, ma non nella mano, col mio sole. Perché solo lei scalda e brucia. Lei che è tutto ciò non sono io. Se fosse un incendio, morirei per tenerlo vivo. Piccola ombra svanita. Lasciato uno spazio già riempito da questa gioia. Sono inaspettati vorticare il calore. Queste danze e riallacciano al mondo. Se fossero fiamme, brucerei per sempre all'inferno. Ora è facile descrivere la gioia, vederti sempre più piccola e alla fine svanire. Sapere cos'è che conta, ed ogni male dove va a finire. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Finalmente possiamo dire che il disco l'abbiamo fatto saltare apposta per permettere a Giovanni di esprimersi nella versione live. Il disco è una bomba, perciò. In caso questo è un pezzo molto bello. Sì. Se Corallo aveva un sacco di stop, di ripartenze, fermate, ripartenze, questo no, è più lirico, cioè più collegato. E il pezzo era bello anche soprattutto dall'effetto che ha fatto Dan con la chitarra, con la Fender. Ti dava una costruzione. Qualcuno ha parlato e io posso essere d'accordo. Non so se sei d'accordo te, un po' alla La Cruz, cioè a Mauro Ermanno Giovanardi, è vero, ma è vero nel senso positivo, non negativo delle cose, secondo me. Io l'ho visto dal vivo, non conosco bene in realtà quello che fa e non lo seguo moltissimo, però quello che ho ascoltato, soprattutto dopo che mi hanno detto che... Che era? Perché hanno già iniziato un collegamento. Hanno già iniziato con l'EP per un pezzo in particolare che si chiama Viale Venezia, che avevo scritto qualche tempo fa, e avevano già iniziato nelle recensioni a dare un collegamento. Comunque a me piace moltissimo, in realtà quello che ho sentito mi piace, e l'ho anche sentito dal vivo, l'ho conosciuto, e è così, anche molto così, disponibile, simpatico, e ha una bella voce. Cioè, una grande voce, grande, sì, veramente. Mi è un piacere ascoltarlo, in effetti. Io ricordo quando aveva fatto quello tributo assieme alla band su Tenco, ecco, la voce sua ha molto della voce di Tenco, di Mario Romano, c'è proprio un collegamento anche ideale con la voce di Tenco. Il tuo disco è decisamente, e questo pezzo era molto bello e molto significativo anche come arrangiamento, fatto qui live, assolutamente live, decisamente. Sì, è anche stato anche un po' improvvisato. Sì, è stato improvvisato, però... ma l'improvvisazione qualche volta serve, piace, serve molto, stimoli. Ma in realtà è molto emozionante, devo dire, fra di noi almeno è emozionante quando improvviso con Daniele, perché insomma sappiamo cosa stiamo facendo, ci sentiamo, ecco. A proposito dell'intesa, è vero, assolutamente sì. Allora, visto che abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, magari due live ci li spariamo uno di fila all'altro. Ok, vai. Cosa c'è? C'è Il nome che vuoi. Il nome che vuoi, un pezzo, quello più... si discosta per quanto nell'arrangiamento del disco, che sentiremo in streaming tutti quanti, ci troviamo a casa mia a ascoltare, è molto acustico, ci sono proprio delle chitarre acustiche, degli arpeggi che si accavallano, ci sono delle armoniche stavolta vere, doppie, ripetitive, cambia molto, è una specie di gioco, anche il testo parla sempre d'amore e parla sempre di possibilità più o meno poi realizzabili, ma è quello più, diciamo, più ironico, si può dire, ecco, di un'ironia abbastanza così sottile, giocosa, non plateale sicuramente. Il nome che vuoi. Telecomandare un gatto, basta avere sofferto per amore, avere dietro gli occhi una vocina bionda che ti chiede se ti piace un colore. Potevo iniziare 10 anni fa, il cuore pronto e subito svanito. Adesso alzo 2 ragazze con un braccio solo, con gomme fiammanti e la strada più pulita, con gli occhi di pietra, mani bollenti, il livello di disordine è regolato da anni. Ti regalo me stesso stasera, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi. Ma era pieno e forse non eri tu. Cambiano i sogni e le frittate e le monete e le terre sotto i piedi, ma le trame sono le stesse, le leggi del profitto, mentre vieni più vicina. Chi era l'assassino, scusa, è stata colpa mia, con gomme fiammanti e la strada più pulita, i tuoi occhi di pietra, le tue mani bollenti, il livello di disordine è regolato da anni. Ti regalo me stesso stasera, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi, dagli il nome che vuoi. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una bella ballata questa, dalle il nome che vuoi, lui è Giovanni Peli, l'album si intitola Tutto ciò che si poteva cantare e fin qua l'abbiamo cantato tutto, o quasi, ecco, abbiamo tralasciato alcuni pezzi, però sarà un valido motivo per andarli a ascoltare sia nella soluzione in cloud che c'è all'interno di internet. Vogliamo ricordarne l'indirizzo, Giovanni? Sì, allora, su YouTube e su SoundCloud. Sì. L'indirizzo è facile, non me lo ricordo però. Benissimo. C'è il mio nome comunque. Bene, prima quindi con... C'è una qualche slash, no, poi il mio nome. Sì, poi con i motori di ricerca in funzione. Sì, sì, no, è semplicissimo. Giovanni Peli è semplicissimo. Sì, sì. Ecco, e allora, questa canzone, tu dici, ti regalo me stesso. Sì, un me stesso. Una delle possibilità. Una delle possibilità che tu vuoi dare come persona, come, non so, un soggetto formato da tante facce, e tu dici prendi la faccia che vuoi in questo caso. Sì, sì. Diciamo. È così, è sì, questa, la canzone sì. Vuole dire quello. Certo. Ci sono tante possibilità che a volte si riuniscono tutte quante insieme, a volte non è possibile. Va bene lo stesso. Quindi non sì, sì, certo. A proposito dell'accordo fra Giovanni e Dan, mentre Dan alzava il volume della Fender, lui l'accompagnava, e l'alzare il volume della Fender dava un suono un po' particolare, proprio un effetto, lo disgregava il pezzo, poi lo ricompattava immediatamente. È una cosa molto positiva, secondo me. Grazie. No, no, ma questo è uno dei motivi per cui Dan è qua, che sa fare anche questo. Perfetto. Allora, noi prima avevamo ascoltato con molto piacere una poesia, Australia, che tu avevi recitato senza base melodica, proprio con la tua voce e basta. Un'altra poesia per sì, farci ascoltare ancora qualcosa di te. Cosa scegli? Dunque, mi è venuto improvvisamente voglia di leggerne una diversa da quella che qualche minuto fa avevo scelto, però ritorno a quella. Voi non lo potete sapere, però sono mille pensieri ho avuto. Bene. Invece adesso qualcosa che potete sentire tutti quanti. Il titolo è Stagioni sovrapposte. Non sono sicuro di avere mai visto una stella cadente da un'ombra dileguarsi nel niente. 4 anni stavo in piedi sul bordo del bidet per guardare fuori dalla finestra girare nel vuoto Santa Lucia e la mamma a confezionare la fantasia. Guarda, diceva, eccola là. Io dicevo di sì, dicevo la vedo, e la realtà si squarciava danzando col mio sguardo le foglie, il mio infallibile sguardo di lucido sognatore. Ed ora che confondo le notti, il passaggio delle stelle è ad un passo dal falso, e perdo con lo stesso sguardo l'ombra di un desiderio. Ecco qua un'altra poesia di Giovanni Peli per noi di Blu Radio Veneto. Così abbiamo scoperto anche l'altra vena artistica di Giovanni, quindi quello di poeta, poi abbiamo citato la parte di librettista ricordando grandi della musica classica, per i quali Giovanni avrebbe voluto lavorare in un certo senso. Ma, essendo nato dopo, diciamo, non c'è stata questo insieme. Ecco, e poi abbiamo scoperto il Giovanni Peli, cantante, cantautore, con Tutto ciò che si poteva cantare, questo suo primo album ufficiale che è venuto qui da noi a presentare, e da dire che ci ha fatto un estremo piacere averti, anche perché ascoltando la tua musica abbiamo detto in coro ad Alberto Prisco, sì, questo lo vogliamo. Assolutamente. Allora Noi ringraziamo te Giovanni, ringraziamo anche Dan, tuo compagno d'avventura in questa serata, e allora ti auguriamo un felice rientro nel tuo territorio lombardo. Sappiamo che hai sconfinato dalla parte veneta per venirci a trovare, stiamo scherzando perché abbiamo dei grandissimi amici dalla parte di Brescia ultimamente, anzi ci state veramente confortando con la vostra musica, ci deve essere veramente un nido perenne di musicisti in quel territorio. Sì, sono stati tutti compressi in un barattolo che è esploso. Esploso, giustamente. Sì, sì. Come mi dicevi al telefono l'altro giorno per presentare, esatto, quella che era la realtà musicale, una para Liverpool, diciamo così, sì, sì. Mi hai detto sì, improvvisamente eravamo tutti dentro una scatoletta e zagate. Così, via, l'esplosione totale da Brescia per l'Italia e per il mondo. Allora, adesso Giovanni, vi lasciamo il microfono aperto per la vostra ultima canzone e io Maurizio salutiamo gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e quindi augurandovi un felice rientro a casa dedicateci un'ultima canzone da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, buona serata, vi lasciamo con Giovanni Peli, il suo amico Dan, per la loro ultima proposta. Come si intitola, Giovanni? Le maschere. Bene, le maschere, grazie. Ciao, grazie. Ciao. La faccia con il cielo, guardiamo una nuvola che va e dentro si vede già intero il futuro senza noi. Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? La notte con vane dolcezze e all'alba un sogno non si risgrega, è un'alba resa come la tua pelle già lontana, prima che il mio volto si mostri per quello che è. Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Non c'è più niente come quei giorni, il sole contava le ore e la gioia era lì da afferrare. E noi lo facevamo con un colpo deciso e la pelle arrossata. Ma oggi, di 2 anni fa, io mi trucco e la faccia non cambia. Tra le bocche spalancate alla stazione di Verona, il destino viene a prendermi e somiglia molto a me. E tu che vivi qui e non ci sei, tra i 100 sensi obliqui nascosi ciò che restava. Ed anche questo ora mi fa bene, ed anche questo ora mi fa bene, e la fantasia ci sostiene. Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, che cosa travestivi di bellezza? Quando non c'ero, quando non c'ero, quando non c'ero, quando non... Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.